Wender e Fabio Alisei presentano. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. Il principio è una sfera coperta di minuscoli specchi. Ogni specchio è una sorgente di luce. Ogni luce rimbalza un'immagine. Ogni immagine racconta un cosmo diverso, colorato, profondo. Riflessi di una generazione. È l'alba degli anni 70. L'uomo ha guardato se stesso dallo spazio e ha visto un'arancia blu. Ma la palla sospesa nel vuoto, su cui uomini, donne, omosessuali, hippie, immigrati, drogati e afroamericani, non è la Terra. È una sfera stroboscopica chiamata Disco Ball. Il crononauta sistema la camicia davanti allo specchio, lucida le scarpe, inforca gli occhiali e dà un'ultima passata di mano sui capelli. È sabato sera, si va nei club per respirare e raccontare l'era della disco music. Anno dopo anno, canzone dopo canzone, eccesso dopo eccesso, in una raffica di scatti col flash. Mettetevi comodi, inizia Polaroid. Di storia della musica. . 1972, New York City, 647 Broadway e Bleecker. È la notte di San Valentino. All'esterno di un fabbricato industriale ci sono 200 persone che masticano qualcosa. Metaqualone, Qualud per gli amici, il biscotto del gorilla. Serve per non sentire la fatica ed è meglio ingoiarlo adesso, perché fra qualche minuto quella checca di Dave Mancuso aprirà le porte del suo loft, The Loft. Poi salirà in console sotto la scritta Love Saves the Day e appoggerà la puntina sul disco. A quel punto niente avrà più importanza, tranne ballare. Ballare fino a svenire, lanciando il cervello a un milione di chilometri all'ora come un convoglio impazzito. Il treno dell'amore. Love Train. Los Angeles, Casablanca Records, 8255 Sunset Boulevard.

parliamo di disco music, solo su Radio 105. E torna tra poco, solo su Radio 105. Questo è Polaroid. Istantanee di storia della musica. Oggi parliamo di disco music, solo su Radio 105. You are

1978, New York City. Allo studio 54 vogliono entrare tutti e si fa a gara a farsi raccomandare da amici e pezzi grossi solo per poter dire: io ci sono stato. Neil e Bernard hanno il culo decisamente coperto. Sono al tavolo di Grace Jones. Solo che i 2,20 metri di negro all'ingresso non ci credono. Lui non li vede sulla lista, uguale loro non sono un cazzo di nessuno. E se non schiodano, li annoda con una mano sola. Così i due amici tornano a casa e sono così incazzati che scrivono una canzone con un titolo inequivocabile: Fuck Off. Poi tornano al locale per cantargliela in faccia. Solo che nel frattempo le cose sono cambiate. Loro non sono più Neil e Bernard, sono gli Chic. E Fuck Off diventa... Parliamo di disco music, solo su Radio 105. Give me the night.